Loro poi conosceranno già, perché ovviamente riprendono le tematiche del passato, per illustrare la metodologia dei seminari. Ma prima di questo, e prima di lasciare poi la direzione dei seminari ai due coordinatori che hanno programmato e pensato questa settimana, cioè il professor Mitke di Heidelberg e il professor Capitani di Bologna, darei la parola al dottor Tarciso Andreolli, assessore della provincia autonoma di Trento per la cultura e anche membro autorevole, o più che autorevole, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura, di cui questo istituto è in qualche modo figlio, anzi. Grazie per questo cordiale invito. È un piacere, oltre che un dovere mio, portarvi un cordiale saluto del Presidente dell'Istituto Trentino di Cultura e anche del Presidente della Giunta Provinciale Angeli. Il senatore Kessler purtroppo forse arriverà questa mattina, mi ha detto, ma all'appuntamento iniziale non poteva essere presente. Diciamo a loro, esperti in questo settore, che la provincia autonoma di Trento ha dato vita ancora da molti anni, precisamente dal 62, a questo Istituto Trentino di Cultura come un centro propulsore della promozione culturale nel Trentino. Istituto che ha dato vita all'Istituto Superiore di Scienze Sociali, poi Libera Università, lo ha finanziato e poi si è fatto anche patrocinatore presso il governo perché questa università diventasse statale. Oggi, dal 73, questa università statale è realtà, però questa università ha mantenuto uno stretto legame con la comunità locale e noi siamo lieti ed orgogliosi di poter contribuire alla crescita di questa istituzione. L'istituto però non è morto con la nascita dell'università statale, ha continuato a vivere. Questo ne è una splendida testimonianza, la sede, l'organizzazione, i seminari, altre iniziative che non sto qui ad elencare, ma che testimoniano la volontà politica della comunità locale di contribuire in modo non secondario alla crescita di un certo livello di formazione culturale. Questi istituti, accanto a questo istituto storico Italo Germanico, ce ne sono altri, c'è un istituto di scienze religiose, c'è un istituto per la ricerca matematica, c'è un istituto per la ricerca scientifica e tecnologica, sono la concreta dimostrazione della volontà di affiancarsi nel libero confronto con l'università perché queste organizzazioni culturali possano contribuire alla crescita dell'università. Dal resto ne la riprova, voi li conoscete, i professori che vivono all'interno di questo istituto sono anche docenti della nostra università. Fatta questa premessa, ringrazio i due correlatori e voi che avete deciso di partecipare a questo convegno, a questo seminario, e mi auguro che questo scambio di esperienze fra voi sia di profitto per i vostri studi, per le vostre ricerche. Infine un augurio di buon soggiorno in questa nostra città trentina. Grazie. Ringrazio io l'assessore e dobbiamo tutti molto al dottor Andreolli, come loro hanno capito dalle sue parole è una partecipazione non formale, vorrei dire anche non politica, tra virgolette, qualcosa di più insomma. Ecco. Adesso però ha altre commissioni e quindi noi lo ringraziamo di essere venuto perché so che è un'altra riunione alle 9:30 e quindi... Lui sa che quando vuol venire a partecipare e ne avrebbe il desiderio è ammesso di diritto tra i partecipanti del convegno. Ecco, benissimo, ecco, poche parole dicevo prima di dare la parola ai coordinatori sulla metodologia dei seminari, richiamando cose già note. Lo scopo dell'istituto è, come abbiamo definito tante volte, in questo essere una stazione di posta tra l'Italia e la Germania, culturalmente. Insomma, è questa stazione di posta dove appunto si cambiano i cavalli e le culture cominciano a essere in contatto fra di loro. In particolare queste settimane, e questo come ho detto è già la 28ª, sono i nostri momenti più intensi di scambio di rapporto, cioè sono settimane in cui appunto le persone che i coordinatori hanno stimato, ecco, e quindi anche poi la scelta dei coordinatori da parte del comitato scientifico dell'istituto così curato, i maggiori esperti in settore in Italia e in Germania che mettono a confronto le due storiografie, insomma, ecco. Cioè noi non vogliamo fare storia comparata italiano e tedesco, vogliamo invece che le due storiografie colloquino fra di loro, insomma, e quindi lo scopo è proprio di contribuire a creare dei momenti di confronto fra le storiografie, naturalmente su temi che interessano le due storiografie, questo è evidente, insomma. Da questo punto di vista diciamo sempre che questi seminari appunto rappresentano, se non un anticongresso, un non congresso, kein congresso. Ecco, proprio è un momento di riflessione insieme, insomma, e deve essere sviluppato. Quindi, come loro vedono, nessuna comunicazione formale, nessuna gerarchia di interventi. Ecco, ci sono le relazioni che servono come base della discussione e di questo colloquio che io spero si estenda ben al di là anche dell'aula qui. Nel pomeriggio poi i lavori riprenderanno nell'aula piccola, più raccolta. Ecco, e per appunto stimolare una discussione che in qualche modo continui in questo raffronto. Da questo punto di vista anche abbiamo evitato tutti gli irrigidimenti, anche per problemi magari economici, insomma, che sarebbero rappresentati dalla traduzione, eccetera. I coordinatori illustreranno i passi difficili, perché capiterà che ci siano delle difficoltà, ma normalmente ognuno parla la sua lingua. E si richiede nell'altro la capacità non di parlare la lingua dell'altro, ma di intendere. E questo è l'equilibrio che in qualche modo ha funzionato, qualche volta di più, qualche volta di meno, ma con l'esperienza di 28 settimane, di 27 settimane, abbiamo visto che la cosa funziona. Ecco. Naturalmente con la traduzione simultanea si potrebbe avere certi vantaggi, non diciamo di no. Ecco, però abbiamo visto che ci sarebbero anche certe sterilizzazioni del discorso che diventano molto pericolose in una situazione come la nostra. Ecco. E altra cosa è che appunto di solito, come loro vedono poi i risultati dei colloqui sono raccolti in volumi dei quaderni dei nostri annali, insomma, ecco. Quaderni che non è obbligatorio escono, ecco, ma che abbiamo visto normalmente escono quasi naturalmente e grazie anche alla cura, ecco, della dottoressa Nobili Schiera, che è incaricata appunto dell'edizione. Due ultime parole per la presentazione appunto dello schema dell'istituto. Ecco, c'è il comitato scientifico presieduto dal professor Vandruska, di cui trasmetto i saluti. Il professor Vandruska dirigerà la settimana prossima e quindi non è arrivato oggi e mi incarica di salutare gli intervenuti. Vandruska è il presidente, ecco. Poi c'è la giunta esecutiva di cui i rappresentanti sono tutti presenti. Mi permetto di presentare il Monsignor Roger, che è qui, il professor Corsini, ecco, e il professor Schiera, ecco. Quindi questa è la giunta esecutiva dell'istituto, che è presente e che è a disposizione, ecco. Poi al secondo piano c'è la segreteria, quindi si prende l'ascensore e c'è la signora Karin Krieg che ha a disposizione per tutte le segretarie dell'istituto dalla nascita, insomma, ecco, monacense come origine, quindi ecco. E un'ultima parola per dire che la biblioteca, casomai durante l'intervallo se i coordinatori ritengono, si può fare anche una visita alla biblioteca nel senso più tecnico, anche a disposizione di tutti, ecco. Quindi noi riteniamo che i congressi molte volte falliscono proprio perché sono fatti nel vuoto, ecco. Noi vogliamo essere qualcosa di diverso perché questo colloquio avviene all'interno di uno strumento di ricerca, ecco, come ormai riteniamo sia la nostra biblioteca, e quindi da una parte è a disposizione di tutti, dall'altra chiediamo a tutti l'aiuto per consigli, eventuali lacune da colmare, eccetera. Insomma, ecco, cioè, questi colloqui devono costituire anche un po' un aiuto anche per noi stessi. Ecco tutto. I coordinatori adesso hanno la conduzione della settimana in toto e quindi a loro. Wir wollen gleich mit der Arbeit beginnen, aber vorher noch die technische Ansage, dass wir die Reihenfolge, die im Programm ausgedruckt Ihnen vorliegt, aus einem bestimmten Grund ändern müssen. Herr Patschowski hat mich zwar vorgestern telefonisch versichert, dass er am Mittwoch reisefähig sein würde, er hat aber eine kleine Operation hinter sich und konnte noch nicht heute kommen, weil er aber fürchtet, dass er nicht am Dienstagnachmittag, sondern erst am Mittwochnachmittag anreisen könnte. Es ist aber eventuell, kommt er schon am Dienstag. Aber zur Sicherheit wollen wir seinen Vortrag von dem Mittwochvormittag auf den Donnerstagvormittag verlegen. Und dafür war Herr Fried freundlich bereit, vom Donnerstagvormittag auf den Mittwochvormittag vorzuspringen. Also Sie müssen nur diese beiden Namen tauschen. Das war die Änderung, die notwendig war. Wir wollten nicht weitergehen in der Änderung, was natürlich auch möglich gewesen wäre. Es gibt sicherlich eine logischere Folge als die, die wir hier gewählt haben. Wir hatten diese Folge gewählt aus verschiedenen Wünschen von Beteiligten und nachher hat sich herausgestellt, dass diese Wünsche gegenstandslos waren. Aber nachdem es nun so gedruckt ist, man muss auch sozusagen den Mut haben, zu dem zu stehen, was man mal gemacht hat, auch wenn die Gründe weggefallen sind dafür. Nicht? Jedenfalls, wenn es um so wichtige Dinge wie die Reihenfolge geht. Insofern bitte ich Sie um Verständnis für diese etwas irreguläre und unlogische Anordnung. Aber ein Historiker ist ja gewohnt, dass die Dinge nicht in logischer Reihenfolge abfolgen. Und insofern haben Sie wieder eine Übung in Ihrem Fach, wenn Sie diese unlogische Folge diskutieren. Bitte sehr. Grazie. Vorrei aggiungere una cosa, e più che altro una prassi, che in questi seminari, allorché il relatore è di lingua germanica, ferma restando il coordinamento da parte del professor Witt che è mio, ma allorché il relatore è di lingua germanica, diciamo il conduttore di quella tornata sia il coordinatore di lingua italiana e viceversa. Così questa mattina per la relazione del professor Selge sarò io, insieme sempre con il professor Mitke, ma diciamo il responsabile di di tutti i piccoli interventi che possano esserci. Dal professor Mitke avete avuto notizia di uno spostamento nel programma e anche la spiegazione di quello che può, come ha detto il professore, apparire un ordinamento non molto logico nello svolgimento delle relazioni, ma difficoltà per una presenza continuativa da parte di tutti i relatori hanno suggerito alla fine questo ordinamento. Del resto il carattere seminariale del nostro incontro può aiutare a superare facilmente quello che di solito è un ordinamento logico, ma solo formalmente logico, perché poi è chiaro che è il contenuto, l'inhalt, no, del seminario che consente la vera logica articolazione. E detto questo, io vorrei brevissimamente fare una serie di considerazioni molto brevi, perché la parola è al nostro relatore, circa quello che a me, che non sono affatto uno specialista di escatologia e che ho il dovere di dichiararmi, anche questa è una prassi del seminario, dei seminari che si tengono a Trento, ognuno è pregato di dire brevemente chi è. Va bene, il mio nome lo conoscete perché l'avete letto scritto, io sono Ovidio Capitani, insegno all'Università di Bologna, insegno storia medioevale, ho studiato a Roma con Raffaello Morgan, con Raul Manselli, con Arsenio Frugoni, e questo può anche spiegare, se non una specializzazione, ma un vivo interesse a dibattiti che io ascoltavo già da quando ero quasi laureato. I miei interessi non sono basso medievali come quei pochissimi che hanno avuto la sventura di leggere le mie cose sanno. I miei interessi sono piuttosto spostati verso i secoli centrali, X-XII, e verso la storia della storiografia medievistica, come interessi diciamo principali. E in questo senso stanno andando anche lavori che ho in corso o che penso di avviare. Pur se devo dire che da qualche tempo, ma di questo forse nelle discussioni, soprattutto penso a proposito di Pietro e Giovanni Olivi, dicevo, da qualche tempo ho un interesse un po' maggiore per determinati problemi in connessione con qualche studio di ecclesiologia che io ho condotto per la parte però precedente questi secoli. Ecco, qualcosa del genere io pregherei che ogni collega volesse fare. Io devo alla cortesia del professor Mitke indicazioni che poi volta a volta, se non saranno date dal relatore, mi permetterò di dare sempre per i colleghi di lingua germanica. Signor direttore, illustri colleghi, giovani amici, signore, signori, l'attesa della fine dei tempi nel Medioevo ha un senso come proposta di meditazione storiografica a più di un titolo. E lo ha per la storiografia germanica e per quella italiana, perché a parte l'interesse che quella anglosassone ha manifestato in tempi non remoti comunque, in queste due storiografie si è suscitata in maniera intuitiva dapprima, poi sempre più analitica, la problematica che doveva correlare un tema topico della religiosità e della spiritualità cristiana, catastrofe finale, ritorno del Cristo, giudizio finale, fine della storia, con i moduli culturali e strutturali della società medievale. Se la Endzeiterwartung è oggi una zona storiografica consolidata, lo è perché se ne è scoperta, soprattutto ad opera delle ricerche condotte in quelle due storiografie, la grande potenzialità interpretativa, la connessione con un bisogno esistenziale collettivo che nel Medioevo, inteso in un'accezione molto tradizionale dapprima, ma come vedremo proprio in questi giorni, non solo molto articolato, ma anche ricco di ombre e luci di attenzione storiografica, che nel Medioevo, dicevo, hanno dettato contemplazione ed azione, identificazioni con la fine della storia o con l'inizio, sia pure terminale, di una nuova storia, alimentando speranze e condanne, spingendo con ciò stesso a una esegesi della scrittura addirittura insospettata, e credo che lo uderemo a proposito di Pietro di Giovanni Olivi, come ad una sollecitazione alla Kirchenkritik, di cui si potrà probabilmente discutere la attribuzione e la cronologia, un po' meno, credo, la reale sussistenza. Ma si è detto nel Medioevo. Ciò vuol dire dal V secolo all'età conciliare? E qui probabilmente molto si potrà discutere. L'ultimo bilancio italiano, di carattere eterogeneo, ma comunque significativo in questa sua eterogeneità, è ormai vecchio di una generazione. Si tratta del volume tudertino L'attesa dell'età nuova nella spiritualità della fine del Medioevo. Si era nel 1960 e il volume usciva nel 62. Ma rimaneva l'equivoco, di cui penso sentiremo parlare tra l'altro nella relazione storiografica, di affrontare indistintamente un tema escatologico senza troppo badare alle differenze tra attesa della fine e attesa dell'età nuova. La fine del Medioevo, e cioè nella fattispecie tardo 300-400 in massima parte, poteva avere in qualche modo buon gioco nella indistinzione dei contenuti enunciati. Meno in quell'occasione ne aveva avuto la riflessione sulle implicanze differenziate tra mera esegesi escatologica, pregnanza culturale e valore sempre più ampiamente ecclesiologico. E ciò al di là, come è stato merito proprio della più agguerrita storiografia degli ultimi 20 anni, delle presentazioni onnicomprensive proprie di maestri, peraltro, quali Benz, Grundmann e dello stesso Morgan. Se era un merito scientifico nel 1962 iniziare nel campo specifico a deideologizzare, per così dire, l'escatologismo, era poi esatto, mantenendo intatto l'arco cronologico medioevo, non interrogarsi sulle valenze che in determinate condizioni si sarebbero potute riconoscere tra escatologia, ecclesiologia da un lato e ideologia? Dico ciò pensando ad una situazione di ricerca che, a quanto ho potuto vedere e che non voglio minimamente anticipare dato il carattere assolutamente cursorio introduttivo appunto da Einführung, non ha impressionato questa situazione di ricerca ovviamente i relatori del, per così dire, versante italiano di questo seminario. Ma questa ricerca si è mostrata refrattaria a misurare nel positivo e nel negativo un precedente che, se ideologico non era, almeno nel senso che noi siamo portati ad attribuire a questo aggettivo, aveva trovato uno spunto storiografico non trascurabile in un excursus di Giovanni Miccoli sul tema patristico del mundus senescens, allorché si affermava: sembra legittimo concludere perciò che il tema del mundus senescens, al di là della semplice allusione ad una periodizzazione storiografica complicata da tradizionali e in apparenza alquanto esteriori risonanze escatologiche, denuncia chiaramente, almeno in certi casi, un problema autentico di rinnovamento personale o di rinascita pastorale, esprimendo attraverso l'antico schema agostiniano un giudizio negativo sulla vita del proprio tempo ed insieme l'esigenza profonda di una nuova incarnazione sociale del cristianesimo. Poteva scrivere Raul Manselli nel 1960, nel bilancio tudertino già citato: l'alto medioevo non ha conosciuto l'attesa di una nuova età, intesa come costituita in sé ed unitaria, che sia intermedia interamente prima del ritorno del Cristo. Ma se questo è indubbiamente vero, ci pare che sia egualmente innegabile che il pessimismo che una tradizione paleocristiana e decisamente agostiniana induce sul giudizio circa la società sia solo un risvolto del problema, che propone contestualmente l'urgenza a quella società di una nuova vita, di una nuova vita di grazia, ma comunque di qualcosa di nuovo, che non può essere inteso semplicemente come fine, cioè fine e crisi della storia e della storia umana. Indefinita, se si vuole, nei suoi termini terreni, ma non tanto se il tema del mundus senescens faceva da significativa introduzione alla ben nota decretale Vergentis di Innocenzo III alla fine del secolo XII, in ambiti cronologici certamente non lontani da quelli di Gioacchino, e lo sentiremo fra poco. E di contro ai mali del mondo, della storia, alla sua crisi, della società in crisi, proponeva lo strumento formidabile della maestà regale della monarchia papale, quasi come certezza di riscatto dalla senescenza e dai mali che l'accompagnavano. L'importanza del che fare della società ha tutta una storia che che deve essere ancora scritta nelle sue connessioni con il pensiero escatologico. È auspicabile che, se non direttamente dalle relazioni impegnate su temi ben precisi e riflettenti una situazione storiografica consolidata anche nelle sue contrapposizioni, dalle discussioni emerga una attenzione anche agli aspetti propositivi e positivi generali della dimensione escatologica. Non sarà sempre possibile, ma si vorrebbe, almeno io vorrei, vedere interpretato Olivi non in una separatezza di atteggiamenti, da intendersi, come si è arrivati anche di recente a proporre, come occasionali, dettati da necessità pratiche. E così la progressiva presa di coscienza ecclesiologica di un pensiero escatologico medievale sarà veramente il parametro discriminante per intendere anche il sorgere di una nuova antropologia. Di ciò, per l'Olivi, ad esempio, si è cominciato a parlare da poco in Italia e non sempre si è voluto intendere il senso della lettura globale di un personaggio e della sua cultura, scaturente proprio dalla considerazione della sua visione escatologica. Questa prospettiva ci pare si sia fatta strada proprio allorché alla fine degli anni 70 ci si è collocati al termine del Medioevo per valutare l'impatto delle attese escatologiche e apocalittiche con la pratica e il sentimento religioso della massa delle popolazioni. Al di là di ogni esclusivismo interpretativo, di cui Roberto Rusconi intravedeva limiti metodologici e inapplicabilità, almeno all'Italia, al di là di quanto su questa specificità italiana ci verrà detto in questi giorni, vorrei allora ritornare alla domanda iniziale. L'unità della mentalità medievale di tutto il Medioevo si può comunque cogliere nell'attesa, un'attesa che potrebbe non essere mai semplicemente della fine, perché sempre accompagnata dall'ansia del riscatto, dall'ansia della certezza del totalmente diverso e del totalmente positivo di cui l'uomo deve in qualche misura riappropriarsi. Nella varietà e nelle articolazioni dei modi storici e culturali in cui il tema per eccellenza del Medioevo si snoda e che ci verranno proposti dai relatori, avremo una risposta, probabilmente, tanto più soddisfacente quanto più fondata sull'esigenza di rappresentarci lo sforzo di affermare la piena razionalità della storia dell'uomo, sforzo compiuto anche nel Medioevo. Grazie. Das Programm will, dass ich auch einige einführende Bemerkungen mache. Mein Name ist Jürgen Mietke, ich lehre mittelalterliche Geschichte an der Universität Heidelberg. Auch ich kann mich nicht als Spezialisten der Eschatologie im Mittelalter bezeichnen. Meine Interessen an der Geistesgeschichte freilich sind langjährig und schmerzhaft. Mein Lehrer Wilhelm Berges vor allem hat mein Interesse an allen Phänomenen der Sozialtheorie geweckt und diesem Bereich fühle ich mich, von diesem Bereich fühle ich mich stetig angezogen. Dass die irdische Geschichte keine endgültige Erfüllung in ihr selbst finden würde, ist eine uralte Überzeugung der Menschheit. Mythen vom Ende der Welt, Erzählungen über die Vernichtung der Welt durch Feuer, Feuersbrunst oder Wasserfluten oder durch andere katastrophale Ereignisse sind über alle Kulturkreise und in verschiedensten Zonen der Erde verbreitet. Solche Vorstellungen müssen nicht unbedingt durch die Erfahrung von Naturkatastrophen hervorgerufen sein. Auch der Kreislauf des Jahres oder der Kreislauf des Lebens kann solche Vorstellungen bedingen. Wie sich Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter ablösen, wie die Phasen von Kindheit, Jugend, Erwachsensein und Alter einander folgen, so folgen im großen Weltenjahr die einzelnen Epochen einander. Und mit dem Ende des einen Jahres beginnt ein neues, an die Stelle des einen Lebens tritt ein neues. Die Zeitalter werden sich, so kann dann die Meinung lauten, im Zyklus am Ende der Weltära wiederholen. Das kann mit kosmologischen Gründen erklärt werden, wie bei den Stoikern, wo eine große Ekpyrosis, ein Weltenbrand am Ende der Zeit, die Welt auf den Gott, auf Zeus zurückführt. Wie Chrysippos etwa schreibt, Sokrates und Platon werden wieder sein und jedermann mit seinen Freunden und Mitbürgern. Er wird dasselbe leiden und dasselbe tun. Jede Stadt, jedes Dorf und jedes Feld wird wieder erstehen. Und diese Wiederkehr wird nicht nur einmal geschehen, endlos vielmehr wird das Gleiche wiederkommen. Soweit das Zitat. Es wurde diese Periodizität des Weltenlaufes aber auch auf die Geschichte übertragen und hier der Erfahrung des Alterns folgend vor allem auf die sich ständig verschlechternde Folge der Generationen, auf die Abfolge eines goldenen, silbernen, ehernen und eisernen Zeitalters etwa bei Hesiod, auf die Metallteile der Statue im Danielbuch, die eine Abfolge der Weltreiche symbolisierte. Solche Historisierung hat in gleitendem Übergang den mythischen Gedanken des Kreislaufes und der Kontinuität abgelegt. Das kosmische Weltenjahr wird zum Rahmen des Ablaufes der Weltgeschichte überhaupt. Bei Daniel, um bei diesem einmal zitierten Beispiel zu bleiben, zertrümmert ein Stein die Statue der Reiche, löst ein Mensch die Herrschaft der vier Tiere ab und damit folgt, Zitat, das Reich der Heiligen des Höchsten, Zitat zu Ende, auf die anderen Weltreiche. Gegenüber dieser Heilszeit erscheint alle vorangegangene Geschichte in ihrem Wechsel als Zeit des Unheils und der Verstörung. Die beiden Zeiten treten sich mit scharfer Grenze einander gegenüber. Der Kontrast kann ausgearbeitet und ausgeprägt werden. Die jüdische Apokalyptik hat das in einem großen Variantenreichtum in Einzelnen früh getan und hat dem Christentum damit ein Szenarium geliefert, das das Ende der gegenwärtigen Unheilszeit von einem Heilsbringer in Gottes Auftrag überwunden sieht. Die Grenze wird in der jüdischen Apokalyptik mit biologischer Metaphorik als Wehen, Odynai griechisch, beschrieben. Und diese Wehen werden ganz wörtlich als Zeit der Schmerzen und Plagen aufgefasst, aus denen aber das schließliche Heil auf Gottes Wirkung hin hervorgeht. Das Gericht Gottes wird als übernatürliches und außerhalb der geschichtlichen Erfahrung in Kriegen, Niederlagen und dergleichen liegendes, jenseits dieser historischen Erfahrung, als ein kosmisches Geschehen verstanden. Die Degenerationserscheinungen, die ursprünglich die letzte Periode des alten Zeitraums vor der Weltenwende charakterisierten, Erscheinungen und Widerfahrnisse wie Naturkatastrophen, Hungersnöte, Pestepidemien, Kriege werden als Vorzeichen des Endes aufgefasst, das gleichwohl nicht durch solche Anzeichen herbeigeführt wird, sondern von selber kommt. Die Wehen der neuen Zeit werden oft mit Stilmitteln der übersteigerten, verkehrten Welt beschrieben, etwa im 4. Esra-Buch, wenn der Höchste dir das Leben fristet, so wirst du das Land in Verwirrung sehen, da wird plötzlich die Sonne bei Nacht scheinen und der Mond bei Tage, von den Bäumen wird Blut träufeln, Steine werden schreien, die Völker kommen in Aufruhr, die Ausgänge der Gestirne in Verwirrung, zur Herrschaft kommt der, den die Erdbewohner nicht erwarten, die Vögel wandern aus, das Meer Sodom bringt Fische hervor und brüllt des Nachts mit einer Stimme, die viele nicht verstehen, aber alle hören und so weiter. Mit dem Ende der Welt nach dieser schrecklichen Zeit wird Gericht gehalten, Lohn und Vergeltung werden von Gott zugeteilt und wie es wiederum beim vierten Esra-Buch heißt, dann wird der Höchste sprechen zu den Völkern, die erweckt sind, nun schaut und erkennt den, den ihr geleugnet, dem ihr nicht gedient, dessen Gebote ihr verachtet, schaut nun hinüber und herüber, hier Seligkeit und Erquickung, dort Feuer und Pein. Zitat zu Ende. Die Geschichte bricht also ab. An die Stelle der alten Welt tritt eine neue. Aber niemand kann Gott ins Handwerk pfuschen. Der Zeitpunkt kommt zu dem von ihm vorherbestimmten Augenblick, von Gott vorherbestimmten Augenblick. Niemand sonst kann diesen Zeitpunkt bestimmen. Das entstehende Christentum setzt sich mit diesem hier sehr schematisch gezeichneten Bild mehrfach auseinander. Und im Neuen Testament finden sich mancherlei Aufnahmen und Umwandlungen dieses Schemas. Der Hauptunterschied zur jüdischen Apokalyptik im Neuen Testament war, dass unangesehen, ob man das Weltende unmittelbar oder bald oder in etwas fernerer Zukunft und unbestimmterer Zukunft erwartete, jedenfalls der neue Äon, die neue Zeit in irgendeiner Form mit dem Kommen Jesu schon angebrochen war und somit die Grenze der Zeitenwende nun zumindest teilweise bereits auch ein Stück zurücklag. Das schloss eine glühende und farbenreiche Ausmalung dessen, was vor dem Weltende noch kommen würde, nicht aus, aber die Verknüpfung der Gegenwart mit den Ereignisfolgen der Zukunft war in der Zugehörigkeit zur Kirche der Erlösten gesichert. Mit dieser Vorgabe trat die Kirche ihren Weg an. Diese Vorstellungen trug sie weiter, wenn damit auch noch nicht das Problem des Ausbleibens des doch zunächst für sehr bald und dringlich erwarteten Weltendes auch nur annähernd gelöst war. Ich kann hier nicht auf die Parousie-Verzögerung eingehen, die schon im Neuen Testament die Christen beunruhigt hat. Die Gemeinde der Erlösten durfte sich nicht auf Dauer an ihrer Erwartung begnügen. Sie musste ihren Weg durch das irdische Jammertal suchen und sich zu diesem Umfeld ihres irdischen Daseins in ein Verhältnis setzen, und zwar je länger, desto dringlicher. Das immer weitergehende Auseinanderklaffen ihrer eschatologischen Erwartung und ihrer geschichtlichen Erfahrung hat die Kirchengeschichte somit im Grunde seit den Zeiten der Urkirche, sicher aber seit den Zeiten der alten Kirche begleitet. Im zweiten Petrusbrief lässt der Verfasser, den die heutige Theologie beider Konfessionen überwiegend in das zweite Viertel des zweiten Jahrhunderts nach Christus datiert, also etwa zwischen 125 und 150, und den sie vielleicht in Rom vermutet, Illusores, Verführer auftreten, die fragen, wo ist die Verheißung oder seine Ankunft, denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang der Welt gewesen ist. Auch in den nicht in den Kanon gelangten beiden Clemensbriefen römischer Herkunft aus dem Ende des ersten und der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus wird eine Schrift, die in der Gemeinde zirkulierte, zitiert, die erbittert festgestellt haben soll, Zitat, das haben wir auch schon in den Tagen der Väter gehört und siehe, wir sind alt geworden und nichts von dem ist uns widerfahren. Es ist nicht der Ort, natürlich hier die vielfältigen Antworten auf solche Fragen auszubreiten, die schon die alte Kirche gefunden hat. Martin Werner, um ihn allein hier zu zitieren, konnte vor etwa 40 Jahren die gesamte Dogmengeschichte der alten Kirche aus solchen Versuchen einer Bewältigung des Problems der Parousieverzögerung zu begreifen versuchen. Wir hätten, wollten wir die antike Erbschaft unseres Problems hier näher bestimmen, mehr als nur eine Tagung nötig, um uns mit auch nur einer ungefähren Exploration zu beschäftigen. Auf das Mittelalter kam jedenfalls, und darauf kommt es mir an, ein vielstimmiger Chor von Antworten und Problemformulierungen zu. Da waren die Schriften des neutestamentlichen Kanons, da waren die Überlegungen und Darlegungen der griechischen wie der lateinischen Patres, der Entwurf Augustins, aber bei weitem nicht nur dieser, da waren die heidnischen eigenen Texte und die heretischen Abweichungen von der Heerstraße der großkirchlichen Grundüberzeugungen. Hier war eine einsinnige Patentantwort nicht zu erwarten und nicht zu erhalten. Darauf freilich hat auch das Mittelalter nicht verzichten wollen, auf die Frage nach dem Ende der Zeiten und darauf, diese Frage selbst zu stellen und selbst zu formulieren. In unterschiedlicher Intensität, mit unterschiedlichen Mitteln und zu den verschiedenen Zeiten in verschiedene Richtung ausgreifend, fielen die Antworten unterschiedlich aus, die im Mittelalter mit Hilfe der vielstimmigen Traditionen und in neuen Ansätzen auf das Problem eines Gesamtverständnisses der geschichtlichen Entwicklung im Blick auf die Richtung der Geschichte und ihr Ende gefunden worden sind. In unserer Studienwoche können wir nicht versuchen, in enzyklopädischer Vollständigkeit allen Antworten nachzugehen, die das Mittelalter gegeben hat. Oder richtiger gesagt, die im Mittelalter gegeben wurden. Wir müssen exemplarisch vorgehen und an Teilbereichen die Aussagen prüfen. Natürlich wird es dabei auch auf die konkreten Aussagen ankommen, die getroffen worden sind, denn nur aus ihnen lassen sich die Motive ableiten, die die Fragen akzentuiert haben. Gleichwohl wird es uns hier nicht ausschließlich auf die Ergebnisse der klassischen sogenannten geistesgeschichtlichen Methode ankommen können. Sicherlich werden wir uns nicht mit der Genealogie konkreter Vorstellungskomplexe, so interessant solche Linien und ihre Verwerfungen im Einzelnen auch sein können, zufrieden geben wollen. Nur geistesgeschichtliche Genealogie bliebe ja letztlich nur dann befriedigend, wenn sie den Weg zu einem gültigen Ziel, das sie dann aber kennt, in seinen gewiss bisweilen unübersichtlichen Windungen verfolgte. Der Historiker, dem die Gewissheit über die Gültigkeit bestimmter Lösungen nicht generell vorgegeben ist, wird dagegen den Weg, nicht das Ziel im Auge haben müssen, wird die Vermittlungsinstanzen der Überlieferung bestimmter Traditionen, die Motive der Menschen, die die Fragen und Antworten weitergaben, die sie neu formulierten oder kritisierten, zu erkennen suchen. Darum wird es auf unserer Tagung der Falllinie der Forschungsbemühungen folgend immer wieder um die Frage der konkreten Kenntnisse und ihrer Vermittlung, der schriftlichen, handschriftlichen Verbreitung, der kodikologisch überprüfbaren materiellen Tradition gehen und damit zugleich um die sozialen Rahmenbedingungen solcher Übermittlungsvorgänge, um Gruppenbildungen und Gruppenbedürfnisse, um das Nicht-Individuelle, das dem Individuum seinen Rahmen steckt. Hier werden deshalb die Vorstellungswelten der mittelalterlichen Endzeiterwartung in besonderem Blick auf die Träger solcher Traditionen, ihren sozialgeschichtlichen Ort, ihre soziale Stellung, ihre konkreten Lebensbedingungen behandelt werden, und zugleich wird immer wieder die Frage nach den schlichten, aber so schwierigen Problemen der physischen Überlieferung der Quellenzeugnisse unsere Aufmerksamkeit erfordern. Es ist zu fürchten, dass wir am Ende der Tagung vielleicht immer noch nicht wissen, was das Mittelalter in der Erwartung des Weltendes gesucht hat und gedacht hat. Ich wäre aber froh, wenn wir gemeinsam uns bewusst machen könnten, wie bestimmte Gruppen im Mittelalter die alten Fragen für ihre eigene Wirklichkeit beantwortet haben. Erst dann dürfen wir hoffen, dass auch diese Wirklichkeit der Menschen, diese Wirklichkeiten im Plural der mittelalterlichen Menschen, uns klarer einsichtig und besser verständlich werden können. E adesso, se qualcuno ritiene di intervenire su quanto ha detto il professor Mitchi e quanto ho detto io, approfittiamo di questo scorcio per... Ecco, sì, abbiamo tempo, quindi un 20-25 minuti. Allora, chi desidera intervenire su quanto ha detto il professor Mitke o su quanto ho detto io? Mitke, venga. Qualcuno vuole chiedere perché sono dette certe cose? Nessuno, almeno non mi pare. Il professor Schiena? No, bisogna sempre in queste circostanze avere un po' di pazienza, perché siamo all'inizio di una settimana che ci dovrà per forza di cose vedere intervenire, quindi è un lavoro. Tutti i giovani che sono qui sono stati tutti loro dovere sacrosanto, quindi bisogna cominciare dall'inizio e bisogna sforzarsi di trovare delle domande da fare sia a Mick che a Capitani. Questo è un problema di fondo, è un problema di metodo nella conduzione dei nostri lavori. Non siamo qui solo per ascoltare, ma siamo qui essenzialmente per discutere, per capire meglio. Io non c'entro, perché non sono un scatologo, non sono giovane, quindi non c'entro proprio, e però bisogna che i giovani si facciano carico di questo problema. Mi pare impossibile che di fronte a due relazioni, a due interventi così pregnanti come quelli di Capitano e di Mitri, su un tema così gigantesco come quello di non ci sia quanto fatto. Quindi io per esempio, io se posso solo fare una piccola provocazione, farla. Essendo io uno storico delle ideologie, no? Sì. Ma soprattutto moderne, a me mi verrebbe conto insomma, che cosa più tardi sviluppasse un po' meglio questo triangolo che ha agevolmente indicato escatologia, ecclesiologia, ideologia. Ma c'è, anzi chiedo scusa, ma non è che io abbia deliberatamente cercato di gettare il sasso e poi non guardare i disegni che nell'acqua il sasso faceva. La mia poi non era una relazione, era soltanto l'enunciato di alcune curiosità, proprio perché io non sono un escatologo o un esperto di escatologia. Ma ecco, devo dire questo, mi ha sempre molto colpito. Ho citato due amici carissimi, uno purtroppo scomparso, ma credo che tutto questo nostro convegno sarà dedicato a Raul Manzelli, che più che mai è presente tra noi, e l'altro invece è vivo e operante, che è Niccoli. Mi ha sempre molto colpito un fatto della nostra storiografia, e cioè questo abbandono consapevole dell'alto medioevo per quanto concerne questo problema, ha una sfera di pura meditazione o speculazione, no? Perché il tema, che è quello che Niccoli ha individuato, e non mi risulta che altri lo abbiano proseguito, quello del mundus senescens, è un tema che è parso quasi topico, quasi, vabbè, è contenuto nella stessa essenza del cristianesimo, e quindi non ha quelle urgenze, quei significati, quelle sollecitazioni che invece l'attesa della fine in senso molto lato, o come attesa della fine dei tempi o attesa dell'età nuova, prima della fine dei tempi, ha avuto nel basso medioevo. Del resto, il passo di Manzelli che io ho ricordato è molto esplicito. L'alto medioevo non ebbe l'idea di un'attesa della età nuova come un tutto unico, no? Bene, perché è avvenuto questo, io non l'ho capito, soprattutto pensando a quello che aveva scritto Niccoli, perché questo motivo del mundus senescens, Edith Pastor lo sa perché nel suo lavoro relativo a Anselmo di Lucca alcuni anni fa lo ha detto, insomma. Noi vediamo che questo motivo è ripreso da personaggi che hanno una loro centralità nella storia del Medioevo, nella storia della Chiesa medievale. Faccio due nomi, Oddone, e quello di Anselmo l'ho fatto prima, ma Niccoli ne cita molti altri. Allora perché questo motivo non è un motivo ideologico? Perché non è un motivo, almeno nella letteratura storica non appare un motivo ideologico. Io non posso dare una risposta, per due ragioni. Tanto perché, torno a ripetere, non sono uno specialista di queste cose, e in secondo luogo perché mi mancherebbe il riferimento storiografico. Nessuno che io sappia se ne è occupato. Ma mi ha colpito invece una valenza ideologica, con tutte le virgolette che volete, quando proprio all'inizio di quella che è considerata, e questa l'ho citata, una decretale fondamentale per la fondazione di una ecclesiologia monarchica, perché è la decretale in cui al Papa si attribuiscono tutte le attribuzioni che il diritto romano dava all'imperatore, no? Quando la disobbedienza al Papa, con applicazione a una situazione concreta che è quella degli eretici, quando questa decretale, e poi il motivo è ripreso in un'altra quasi coeva decretale, fa esplicito riferimento al fatto che ormai il mondo è così, è vecchio, e che quindi avvengono proliferazioni di pseudoprofeti, di eretici, ma tutto questo è contro la volontà della Chiesa, è contro la volontà del Papa. Chi si ribella reca offesa, e quindi si propone come rimedio, e quindi ha ragione Miccoli, non c'è mai un mondo senescente che non richiami un mondo invece che si riscatta. Ma come si riscatta? In questo caso si riscatta in una precisa struttura, no? E allora, non so, non sarà una ecclesiologia quella di Innocenzo III, non lo so, vabbè, su questo si può discutere e molti l'hanno discusso, però indubbiamente questo motivo, che anche Miccoli chiama sì, escatologico, del mondo che invecchia, ha alla fine del secolo XII questa valenza ideologica. Voglio ricordare, ma questo è stato poi detto ampiamente, anche se su un piano diverso, che la Vergentis inizia con questo motivo, ma ha moltissimi contenuti normativi ripresi dalla Ad Abolendam, che è di Lucio III e di Federico Barbarossa. Allora, io che sono un profano, dico, ma questi fatti, questi scritti che hanno avuto una indubbia efficacia, e lo abbiamo visto, sono così vicini tra di loro, recano dei motivi che ci colpiscono in questa sede. Allora c'è stata alla fine una valenza ideologica di un motivo che in apparenza nell'alto medioevo non era stato ideologico. Forse non aveva avuto modo di esprimere la propria potenzialità ideologica, perché il motivo del mondo che invecchia, ma che richiama comunque un riscatto, è una tipica struttura, se vogliamo dire così, è una tipica struttura dialettica. Quindi non c'è un alto medioevo, l'impressione che ho avuto, che non ha mai una visione appunto articolata, quale sarà quella e di Gioacchino e più ancora poi di Pietro e di Giovanni Olivi, ma c'è un alto medioevo che sente l'urgere, lo riconosce in qualche momento. Lo stesso Manselli aveva detto che questi motivi diventavano più frequenti al momento dell'invasione degli Ungheri, no? Della crisi del secolo X, e vabbè. E propone qualcosa, anche il modello monastico cluniacense, che diventa così un modello per tutta una società, è una proposta. E allora queste potenzialità, per perdonatemi l'aggettivo se non volete ideologico, ma io lo chiamerei ideologico, vengono fuori meno. La coscienza di tutte le possibili articolazioni è un fatto che indubbiamente appartiene a quello che noi chiamiamo il basso medioevo, ed è centrale in questo la figura di Gioacchino da Fiore. Ma volevo solo così esprimere la mia impressione che se veramente l'escatologia è un connotato di quella età che chiamiamo medioevo, noi non possiamo tagliare così nettamente una parte e l'altra. Ecco, in sostanza era questo. Vasoli. Il punto che mi sembra importante è che questa tradizione del tempo che invecchia, l'invecchiare del tempo, è in fondo una tradizione di lunghissimo periodo, lunghissima, pre-cristiana. Sì, pre-cristiana. È la tradizione dell'idea del tempo che è tipica di gran parte delle civiltà antiche, cioè il tempo come connotato, direi in qualche modo opposto a quello che assume proprio nella visione cristiana per molti sensi, perché nel mondo cristiano il tempo ha un significato, cioè ha un significato nel senso che è una continua progressione verso qualcosa, mentre nel mondo classico lo schema è quello della circolarità, e la circolarità che è poi lo schema della vita biologica, insomma, della vita, lo schema delle civiltà agrarie, insomma, del mondo. È l'idea che il tempo viene invecchiando così come invecchiano le stagioni, come l'anno va invecchiando. E l'invecchiamento del tempo però porta appunto al passaggio poi del solstizio, l'anno rinasce, è l'idea della rinascita dell'anno, la rinascita del tempo. Che è appunto uno schema quindi che la civiltà, anche alto medievale, eredita naturalmente con le culture classiche e a cui poi appunto si danno sempre delle valenze ideologiche, perché se uno prende per esempio la celebre egloga di Virgilio, trova proprio l'utilizzazione di questo schema già di tipo ideologico nell'età augustea, insomma, cioè il tempo che si rinnuova con la nascita. Con la nascita del fanciullo, è il famoso tema che proprio uno storico tedesco, un grande storico tedesco, mise in così forte rilievo, ne accennerò quando parlerò, è col tema della Fenice. Anche il tema iconografico della Fenice, che certo che ritorna, appunto Coran Bordak, si sta molto sul tema anche dell'iconografia della Fenice, cioè il mondo che muore e rinasce dalle sue ceneri, insomma, è l'idea della palingenesi, cioè è un'escatologia di tipo pre-cristiano, che poi si ideologizza sempre in contenuti politici anche nelle civiltà antiche, molte volte, vero? E che poi assume, nel cristianesimo viene mediata con l'idea proprio della renovatio, renascenzia, e attraverso quel gioco, quello scambio anche di termini concettuali che è stato spesso illustrato. Grazie. Interventi su quanto ha detto il professor Mitke. Il professor Mitke, e mi rifaccio a quello che ha detto Vasoli, si è anche lui rifatto al periodo pre-cristiano, ha ricordato questa idea della fine nelle concezioni stoiche, nella risoluzione cosmica, e quindi direi che l'impressione che io ho avuto, ma non nello specifico, ma sentendo queste due questi due avvii al lavoro, è che sia stata tenuta fortemente da parte di chi ha avuto l'onore di coordinare questi interventi, sia tenuta fortemente presente l'istanza non anacronistica di tradurre nei nostri termini quella che era una precisa formulazione di una spiritualità che non è la nostra, ma che si sia però tenuta fortemente presente da parte nostra l'esigenza di appunto comprendere in termini fattuali discorsi. Può sembrare banale ricordarlo agli specialisti, ma qui ci sono anche dei giovani che ancora specialisti non sono, dicevo, sottolineare sempre nella storia, soprattutto quando si fa storia di concetti, storia di idee, storia della spiritualità, di sottolineare la concretezza che sempre queste cose hanno. E queste cose ce l'hanno perché, se sono storicamente individuabili, perché sono espressione di un'esigenza fortemente radicata nell'uomo. Non a caso terminavo dicendo che forse bisognerebbe anche più attentamente di quanto non si sia fatto, lo sentiremo poi domani, collegare questi temi escatologici con precise visioni antropologiche che si affermano soprattutto col francescanesimo, ma questo è un altro discorso. Io non avrei altro da dire se qualcuno non vuole intervenire. Prego, Lambertini. No, qui per favore, perché così... Proprio legandomi a questo, volevo chiedere al professor Mentichi di ritornare al tema che aveva accennato del rapporto tra queste tematiche e il metodo della Geistesgeschichte. Mi chiamo Roberto Lambertini, insegno storia e filosofia al liceo di Finale Emilia. Allora, prego. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Arbeiten hier nicht damit zufrieden sein können, bestimmte Konfigurationen von Gedanken nachzuvollziehen, zu erzählen, wie Joachim oder Petrus Johannes Olivi oder Aegidius Romanus oder ein Humanist des 15. Jahrhunderts sich das tausendjährige Reich vor Ankunft des Antichrists vorgestellt haben oder wie sie sich es nicht vorgestellt haben, also wie sie es geleugnet haben. Dass dies alles wichtig ist, ist klar, denn nur wenn wir solche Vorstellungen uns deutlich machen, können wir nach den Motiven fragen, aus denen sie erwachsen sind. Aber worauf ich hinweisen wollte, war, dass wir uns hier in der kommenden Woche doch mehr mit dem beschäftigen müssen, was solche Vorstellungen im Rahmen ihrer Zeit bedeutet haben. Und das bedeutet dann eben, dass wir in eine vielleicht auch etwas, manchmal etwas trockene Diskussion eintreten müssen. Und Herr Selger hat uns ja das deutlich gemacht, dass es notwendig ist, wenn wir über Joachim von Fiore sprechen, dass wir uns dann über solche einfachen Fragen wie die Chronologie seiner Schriften Gedanken machen müssen. Und was er natürlich jetzt noch nicht gesagt hat, aber was doch sicher deutlich geworden ist, dass aus dieser Chronologie der Schriften sich auch eine bestimmte Verbindung zu dem ergibt, was er in seiner Zeit erfahren hat und wie er auf seine Zeit wirkte. In den letzten Bemerkungen, gerade im dritten Teil seines Referats, ist doch deutlich geworden, dass die Wirkungsgeschichte des Joachim ja ohne eine Reflexion dieser Genese seiner Schriften nur schwer zu ordnen ist. Und das scheint mir, das war ein Punkt, ich habe das Referat von Herrn Selge nicht gekannt, nicht mal die Zusammenfassung, die er hier abgeliefert hat, als ich meine Vorbemerkungen verfasst habe. Ich habe aber schon vermutet, dass wir, und ich vermute auch, dass auch andere Referate zumindest streckenweise solche Fragen, die eben Datierungen betreffen oder Überlieferungswege betreffen, die Gruppen identifizieren müssen, in denen bestimmte Ideen kursiert haben, dass solche Fragen uns mindestens ebenso sehr interessieren müssen, wie die genaue Struktur des Millenniums oder des Nicht-Millenniums, das am Ende der Zeit oder kurz vor Ende der Zeit oder eben überhaupt nicht eintritt. Denn nur die Verbindung beider ist für den Historiker dann letzten Endes wichtig, weil nur so wir aus der fantasieanregenden, aber leerbleibenden Wiederholung vergangener Gedanken herauskommen und uns klar machen können, wie Menschen und Gruppen, die gestorben sind und nicht mehr existieren, aber wie sie gelebt haben. In mir scheint also diese Wiederholung des Weges von menschlichen Gruppen für den Historiker wichtiger zu sein als die Wiederholung dessen, die alleinige Wiederholung dessen, was sie gedacht haben. Das soll nicht ablehnen, dass Philosophiegeschichte und Geistesgeschichte im klassischen Sinne interessant sein kann. Bloß ist es nicht das, was wir hier in dieser Woche tun wollen. Das war meine Meinung. Und wie gesagt, ich habe es exemplifiziert am Vortrag von Herrn Selge, weil der hinter uns liegt. Der hermeneutische Weg zwischen der Erfassung von vergangenen bestimmten Denksystemen oder Denkstrukturen manchmal auch und der Herausarbeitung sozusagen der konkreten Details, die man dann im Einzelnen auch haben muss, um eine gute Basis zu finden, ist ja sicher so, dass die Philologie im Einzelnen völlig wert- und sinnlos ist, wenn man nicht auf irgendeine Weise Feuer gefangen hat, an dem großen Thema, das bleibt. Und da ist also bei der mittelalterlichen, also ganz mit dem ganzen Problem, also Endzeiterwartung in verschiedenen Formen, Pessimismus, historischer Pessimismus, Mundus Senescens, Erbsündenlehre, nicht wahr, all diese Dinge, und andererseits der Notwendigkeit, etwas zu schaffen, eine Struktur zu schaffen für die begrenzte Zeit, die zur Verfügung ist, der Generation oder der Nächsten. Und über diese bleibenden, merkwürdigen Doppelaspekte zu erfassen, die ja nicht vergangen sind, etwa durch Reform und Fortschritt und Ausweitung der Zeitperspektive in die Zukunft, sozusagen durch das Wesenloswerden oder Schattenhaftwerden oder in die Sakristei versinken der liturgischen Formeln der alten Eschatologie, nicht wahr? Das Problem bleibt ja, nicht wahr? Die begrenzte Perspektive, die Neigung zum Pessimismus oder zur Verzweiflung und die Notwendigkeit zu handeln. Und an dem Punkt ist es also immer wichtiger, sozusagen jedenfalls das Wesentliche und das Ganze zu erfassen, als dies oder jenes Detail zu klären, was ich nun mal in diesem Fall, weil es bei Joachim so nötig ist, vorgezogen habe. Aber mir fiel ein Beispiel, das außerhalb des Rahmens unserer Betrachtung liegt, aber sachlich nicht außerhalb liegt, ein, das mir als protestantischen Theologen naheliegt. Ich mühe mich eigentlich seit 20, ich habe so ein Buch nicht fertig geschrieben und will es irgendwann mal fertig schreiben, wenn mir die Ideen kommen, über Luther. Ich habe es nicht fertig gekriegt, weil dieses Problem von Antichrist-Definition im Papsttum und Eschatologie, Erwartung der Nähe des jüngsten Tages, Endzeitsbewusstsein eben völlig mittelalterlich sozusagen und dem, was nun abundantemente, überreichlich in unserem Jahrhundert herausgearbeitet ist, Modernität Luthers, Berufsethik, um nur ein Stichwort zu nehmen, nicht wahr? Rationalität, wohlfeile Kirche, die für die Bedürfnisse des Bürgertums oder wie all die Formeln lauten, die gebraucht worden sind. Also ein moderner Luther, der die Neuzeit vorwegnimmt, der die Metaphysik überwindet, ich war im Abendmahlstreit geradezu, Gott kann im Kleinsten wie im Größten sein, das sind alles nicht, da ist er viel moderner, wird gesagt, als die Humanisten waren, die immer so geistig sein wollten. Also sozusagen Vorläufer auch der Möglichkeit materialistischer Denkformen geradezu. Dieses Nebeneinander bei Luther, das ist mir immer schwer verständlich gewesen, und ganz schwer ist es, sozusagen in der Luther-Interpretation abzusehen, von dem immer vorhandenen Bedürfnis der sozialen Gemeinschaften, die sich auf ihn berufen, also in diesem Fall vor allem der protestantischen, inzwischen aber auch gewisser Kreise der katholischen Kirche, sozusagen bei Luther sich selbst nochmal wiederzufinden. Nicht? Oder wie manche Katholiken jetzt sagen, Luther doch auch einer der großen Kirchenväter. Davon muss man absehen, weil das die historische Vision wiederum eintrüben kann, und es hilft nicht die Einheit der negativen, pessimistischen, endzeitlichen und der modernen Züge zu erfassen. Ja, das kirchliche Interpretationsinteresse muss man einen Augenblick zumindest beiseite lassen dabei. Es bleibt aber das Interesse dabei, was ist das für eine Denkfigur, in dem jemand, der eigentlich in der Tiefe ja viel pessimistischer ist als Augustin noch, möchte ich sagen, ein schwarzes Menschheitsbewusstsein hat, von der radikalen Verderbtheit und der Hoffnungslosigkeit, der absoluten Hoffnungslosigkeit des Menschen, doch aufgrund seiner Schriftauslegung und seiner Theologie sagt, man kann aber doch Inseln rechter Ordnung der Welt, rechter Natürlichkeit schaffen, die nicht die Neuzeit, die fortschrittliche Neuzeit darstellen, sondern also Orte, an denen Väter ihre und Mütter ihre Kinder gut erziehen, gut zur Schule schicken, Schulmeister in den Katechismus gut beibringen und Pastoren aus der Bibel und nicht aus ihrem Kopf oder aus den Papstdekreten die einfachen 10 Gebote und das Evangelium beibringen, die dann gute Untertanen sind, in ihrem Stand bleiben oder auch einen Aufstieg in einen anderen Stand wählen, aber nicht sozusagen unbedingt den Stand wechseln müssen, um Gott gehorsam zu sein, und zum Schutz des beiden, der Familie, der Schule, des Predigtamtes, dann noch die gute Obrigkeit, ja, die auch von Gott ist. Das sind Inseln, sozusagen gegen den Satan, der immer wieder neu alles kaputt macht. Und zwar von außen, nicht wahr, aus der Antichrist von außen oder alle seine Mächte, aber auch das Evangelium wird immer wieder verfälscht. Ja, tritt überall, auch dort immer wieder auf. Die Einheit dieses beiden ist wirklich sehr schwer zu verstehen und ist doch eine noch mittelalterlich bleibende Struktur, ja, die sich ganz anders, was Herr Capitani sagt und was auch Mieke besprochen hat, anschließt. Und das ist etwas sozusagen, was das gegenwärtige Interesse, auch abgesehen von dem speziellen sozusagen kirchlichen, christlichen, ökumenischen Interesse an diesen mittelalterlichen Denkfiguren ausmacht, denn wirklich denn diese menschliche Situation, auch wenn der Pessimismus, naja, es gibt immer wieder Wogen des Pessimismus, nicht wahr? Die Gegenwart ist eigentlich auch voll davon. Das Hin und Her zwischen apokalyptischer Stimmung bei Jeffrey Barclay habe ich gelesen, it's a time when apocalypse is coming closer, nicht wahr? Diese Stimmungen sind auch der Historiografie gleich verbreitet und dispensieren doch nicht davon, positive Entwürfe im Relativen zu machen. Stamattina, appunto, l'ho già detto prima. Ecco, no, volevo solo proprio leggere una pagina di Manselli per soltanto dare una testimonianza. Manselli, come già è stato ricordato, è un po' il padre anche di questo seminario, insomma, ecco, perché era nel nostro comitato scientifico e appunto si parlava dell'importanza di questi temi che poi sono maturati purtroppo senza di lui qui. E in una prefazione a un volume su ricerche sull'influenza della profezia nel basso medioevo, uscito nel 73, ecco, praticamente facevo una recensione a un volume della Reeves, la famosa e studiosa di queste tematiche, che dice: il più grave limite che ci sembra di trovare in questo volume è che le idee campeggiano come se fossero realtà vive, con una loro storia iperurania, mentre emergono appena gli uomini, che quelle idee vissero in una dialettica spesso drammatica, talvolta tragica, con i loro contraddittori e antagonisti, e persino con gli stessi loro adepti e seguaci, elaborandole e rielaborandole nell'urto duro e quotidiano con la realtà dalla quale venivano confermate o smentite. Invece, solo se calate negli uomini, queste catene di idee cessano di essere astrazioni. E questo mi pare molto importante, proprio come appunto base di tutto quel che dicevi anche tu. Cessano di essere astrazioni a volte strane, paradossali e bizzarre per inserirsi nel tessuto di un'epoca, per diventare elementi ineliminabili, vivo, palpitante. Così anche per Gioacchino da Fiore, dicevo, continua, diventa portavoce di un'esigenza religiosa profonda che è venuta affermandosi in seno al secolo XII e che nell'abate calabrese si esprime in un'intensità viva e con la forza di un messaggio profetico. Mentre la realtà gerarchica e organizzata della Chiesa veniva sistemandosi e cercava contemporaneamente di darsi le norme che dovevano costituirla e reggerla, tutta una larga parte dei fedeli e molti di quelli che proprio il papato riformatore aveva chiamato accanto a sé, sentiva con forza trascinatrice il bisogno di una fede viva di cui fosse centro ed anima il complesso di valori espressi nella vita di Cristo, quali l'avevano descritta gli Evangeli e quali l'avevano indicata gli altri scritti del Nuovo Testamento. L'umiltà, la povertà, la carità, nella predicazione, nell'esemplarità, eccetera. E continua così. Ecco, cioè la sostanza di questo discorso di Mansell, la premessa al volume, insomma, mi sembra proprio sia doppio richiamo che è venuto fuori stamattina, insomma, ecco, cioè, da una parte le correnti profonde, insomma, ecco, che appunto partono dall'Antico Testamento e dalle tematiche apocalisse del mondo antico e percorrono sotterranee, e dall'altro questo scontro, insomma, ecco, con realtà diverse, ecco, che prende uno spessore specifico in questo momento in cui, e qui appunto da profano, appunto, mi permetto di sottolineare anch'io l'interesse anche per i non addetti al lavoro di un tema di questo tipo, insomma, ecco, in cui il richiamo all'età nuova diventa l'ipotesi, io dico, di un dualismo, cioè di un'alternativa, usando una parola un po' forse di qualcosa che si può, ecco, contrapporre all'esistente come speranza, insomma, ecco, e non solo come pessimismo del mondo senescente, ecco. Quindi sono questi due. L'importante poi è che queste cose uno le tenga presenti anche quando fa del lavoro meramente di accertamento, perché senza lavoro di accertamento a loro volta queste suggestioni diventano astrazioni. Ma il lavoro di accertamento è sempre finalizzato in questi ambiti a un tema, a una tesi. Prego. Grazie, chiedo scusa anche perché essendo qui un po' marginale, non marginato. Sì, sono Pierarnau di Barcellona, professor Pierarnau di Barcellona. Credo che con il suo intervento penso che si sia fatta anche un po' di luce, perché io confesso di essere stato parecchie ore un po' in confusione, perché il titolo della settimana è l'attesa della fine dei tempi nel Medioevo, e invece le relazioni, se non tutte le principali, sono su Gioacchino di Fiori. Ed io in questi ultimi mesi, in quest'ultimo mese, avevo sul tavolo due testi, L'Enchiridion di Gioachimo De Fiori, pubblicato a Toronto, e un testo di Arnaldo di Villanova, concretamente il De Mysterio Cimbalorum, che sto per editare, per pubblicare. E leggendo l'Enchiridion di Gioachimo non ci ho visto assolutamente nessuna attesa della fine dei tempi, ma un grande intento importante, mi pare, non sono persona per giudicarlo, un importante intento di fare una teologia della storia che sboca non in una attesa, bensì in una speranza che è teologale, Hoffnung, eine Tugend, die ist Hoffnung, in un cambio di età. E poi esplicitamente dice, e io non oserei mai dire quando arriverà la fine dei tempi, dopo la terza età. Allora io stavo in confusione perché avevo l'impressione che tutto era attesa della fine dei tempi, quando in realtà gioachimismo non è assolutamente l'attesa della fine, bensì la speranza di un cambio verso l'età dello Spirito Santo, non l'età, lo status dello Spirito Santo, in cui lui è sicuro di trovarsi già, perché è sicuro di trovarsi nella sesta epoca dello status del figlio. E allora è certo di trovarsi già in questa situazione di transito. E lo dico perché, ho detto prima, io avevo sul tavolo due testi, invece quell'altro è veramente un'attesa della fine, perché lui ha la libertà, per così dire, di segnare: l'anticristo sarà qui entro l'anno 1376. E poi un altro caso, anche da noi, un altro caso che segna l'attesa della fine è Vincenzo Ferrer, no? Lui anche dice 1410. Posso affermare in questo momento che l'anticristo è già nato e ha 13 anni. Questa è l'attesa della fine, non l'altra. Allora mi pare che quando lei ha accennato a una visione pessimistica aveva tutta la ragione, perché l'attesa della fine è pessimistica, per natura, mentre invece il gioachimismo non ha generato niente di pessimistico, bensì tutta la collaborazione dentro la speranza teologale per arrivare all'età dello Spirito Santo, allo stato dello Spirito Santo, è tutto questo. Se con la settimana si arriva a superare questo imbroglio in mente che avevo all'inizio, do grazie per la collaborazione. Sicherlich ist es berechtigt darauf hinzuweisen, dass die Endzeiterwartung sich in sehr verschiedenen Formen ausspricht, und darauf versuchte ich ganz kurz einzugehen. Wenn Joachim von Fiore von mir trotzdem noch in die Endzeiterwartung des Mittelalters einbezogen wird und ich nicht einverstanden bin damit, dass wir als Endzeiterwartung nur die apokalyptischen, also im klassischen Sinn apokalyptischen Bestimmungen des Weltendes und Vorausberechnungen im nicht-augustinischen Sinne akzeptieren, dann liegt es daran, dass ich eben auf die augustinische Tradition hinweisen würde. Augustin, schon in der Antike ist diese Debatte geführt worden, kann man das Ende berechnen? Und Augustin hat nun mit einer ganz schwerwiegenden Folge für die mittelalterliche Geistesgeschichte gesagt, man kann es nicht berechnen. Und deswegen müssen wir, wenn wir mittelalterliche Endzeiterwartung besprechen, auch diese Position zur Kenntnis nehmen. Vielleicht ist es in der Tat verwirrend, wenn wir mit Joachim von Fiore anfangen. Die Reihenfolge der Referate ist, wie gesagt, nicht in Ordnung, in ihrer richtigen Ordnung. Wir werden uns am Mittwoch über die Endzeiterwartung der Zeit um das Jahrtausend beschäftigen. Die ist nicht so optimistisch, wenn wir Joachim Optimismus zuschreiben dürfen. Sie ist aber auch nicht so pessimistisch wie Vincent Ferrer. Wir werden uns an einer anderen Stelle auch mit den, Herr Rusconi wird sprechen über die Endzeiterwartung in der Zeit des Schisma. Vincent Ferrer gehört ja nur unbedingt dazu. Wir werden sehen, dass diese Erwartungen verschiedene Gestalt haben in verschiedenen Jahrhunderten, und wir sollten vielleicht am Ende doch versuchen, also nicht einen roten Faden zu finden. Das hieße ja, den roten Faden des Mittelalters überhaupt zu finden, und ob es uns das in einer Settimana di Studi gelingt, das möchte ich bezweifeln. Aber wir sollten doch versuchen, zumindest das zu konfrontieren am Ende, was wir jeweils zu dieser Frage gefunden haben. Ich glaube, deswegen ist es sehr wichtig, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass die Weltsicht in den verschiedenen Konstruktionen des Weltendes oder des Übergangs bis zum Weltende, der Optimismus des Joachim entsteht doch nur dadurch, dass er die Zeit bis zum Weltende konstruktiv auffüllt. Nicht? Also, aber darüber können wir vielleicht heute Nachmittag noch reden. Wir werden über das Referat von Herrn Selge ja heute Nachmittag noch mal diskutieren, und da sollten wir dann auch noch. Le chiedo scusa, perché io immagino che lei volesse riferirsi anche a quello che ho detto io. Un po' all'impressione globale sulla. Ma io non ho assolutamente parlato di attesa della fine dei tempi a proposito di Gioacchimismo. Io ho il testo qui, glielo posso anche rileggere. Anzi, ho sostenuto semmai che si è passati, ma ormai nella storiografia è andata, da una confusione per cui l'attesa della fine dei tempi si mescolava con l'attesa dell'età nuova, ha una visione ben distinta, e ho citato il passo di Manselli, che ho ricordato anche prima, proprio per dimostrare che si tratta di due cose diverse. Semmai il pessimismo è quello prima di Gioacchino, e con Gioacchino si può inaugurare, o limitatamente a Gioacchino, si può intravedere l'instaurarsi dell'attesa, della speranza, ma io mi chiedo se l'attesa non sia sempre una speranza, di un'età nuova, intesa, come lei ha richiamato giustamente, su un piano teologico. Ma per quanto mi riguarda, non credo proprio di aver parlato di Gioacchino da Fiore come colui che attende la fine dei tempi. No. Io lo spunto per il mio intervento è stato un po' la contrapposizione tra il pessimismo e l'ottimismo, di cui mi penso abbia detto qualcosa professor Prodi, in modo che la ringrazio tanto, ma non era mia intenzione. Grazie a lei. Fatto anticipare il pranzo dall'una alla mezza, perché pareva sì, no, che adesso andiamo. Adesso, come al solito, poi non si va mai, cioè sempre, il tempo sembra larghissimo all'inizio, poi il tempo si restringe, cioè c'è una relatività anche nei congressi di questa cosa. Allora, a lettere. C'è tutta la settimana per ritornare sui temi delle due introduzioni, penso. È di fronte proprio dall'altra parte della strada, vecchia Trento, dall'altra parte della strada. Spero che abbiate portato i buoni, che la roba può restare qui e custodita, ecco, credo. Meglio. Anzi, nella saletta qui a fianco, dove saremo nel pomeriggio.